Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 15 minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Tanto inutile girarci attorno, parleremo anche ricostruendo con l'agenzia quello che è successo oggi al Sole 24 Ore. Noi di solito siamo abituati a dare le notizie e invece oggi siamo diventati notizia e già vi è un comunicato, è un comunicato del CDR. Chiedo anche scusa agli ascoltatori per il leggero ritardo del GR delle 17, ma diciamo, quando ci sono assemblee sindacali in corso, ahimè, qualche intoppo può capitare e ne parleremo. Condivido, e poi andiamo sul dettaglio della cosa, totalmente l'appello che poco fa ha fatto Oscar Giannino, pur non essendo un dipendente del Sole 24 Ore ma un collaboratore. E c'è massima solidarietà a tutti i colleghi del gruppo e quindi giornalisti del Sole 24 Ore, di Radio Cor e di Radio 24, che sono parte lesa oltre che parte offesa, nel senso che nulla c'entrano in questa vicenda, ma non perché lo dice il sottoscritto, perché adesso leggeremo quelle che sono le ipotesi dei PM diffuse dalle agenzie. Quindi quando qualcuno mi scrive, poi oggi guardi non ho proprio voglia di rispondere, ma non avete visto né sentito niente, ora fate sciopero. Intanto non so a chi si sta riferendo, ma il problema è che le responsabilità in questo paese sono ancora personali, va bene? Per cui chiamare in causa i colleghi del Sole 24 Ore, l'ho già detto una volta, lo ridico molto, in maniera molto tranquilla e chiara: si possono criticare i giornalisti del Sole, della radio e di Radio Cor perché per la loro competenza, per la loro inesattezza, per la loro precisione, per la loro capacità di analisi, non per gestioni di carattere manageriale. Ognuno si prende le sue responsabilità. Se una notizia non viene vista, viene vista male, viene data male, non viene enfatizzata, viene non capita e quant'altro, la responsabilità è del giornalista che questa notizia la scrive e della catena di comando che questa notizia la deve verificare. La gestione manageriale di un gruppo non compete ai giornalisti. Tutto qua, quindi il Sole 24 Ore come quotidiano e la radio come radio e l'agenzia di stampa Radio Cor possono piacere essere criticate dal punto di vista della loro competenza e correttezza nell'informazione, non dal punto di vista della gestione manageriale di un gruppo quotato in borsa. Adesso vi arriveremo, vedo che qualcuno gode, va bene, gode per poco diciamo. Andiamo avanti invece con la giornata. Oggi faremo, come sempre facciamo, la classifica del venerdì, che come sempre non riguarderà, lo dico già immaginando la battuta, non riguarda gruppi privati ma riguarda solo denaro pubblico, quindi a chi già me lo scrive non vi sarà assolutamente Sole 24 Ore nella classifica. Daremo ampio spazio invece alla ricostruzione della giornata. Non abbiamo mai inserito nella classifica un gruppo privato, partendo ormai, quanto è che la facciamo, 2 anni e mezzo, dal presupposto che dei soldi privati rispondono gli azionisti, ci sono le assemblee, dei soldi pubblici sono soldi nostri. Ancora per quello che riguarda la giornata in borsa, più 0,43% Milano, più 0,31% Parigi, meno 0,20% Francoforte, più 0,45% Londra. Tra i titoli segnalo Case New Holland meno 1,70%, Fiat Chrysler meno 1,5%, Leonardo meno 1,30%, come A2A l'1,1% lo perdono ST Microelectronics e Snam. Il fronte opposto vede invece andare bene le banche: Banco BPM più 5,70%, Biperbanca più 2,90%, Unicredit più 2,80%, UbiBanca più 2,30% e anche Intesa San Paolo guadagna il 2,30%. Ancora Mediobanca più 2, Campari più 1,80, Fineco più 1,60, Mediaset più 1,15, Iux Santaporte più 1%, come Prismian. Chi mi dice della credibilità in merito alla vicenda del Sole 24 Ore che riguarda il gruppo Sole 24 Ore, faccio notare che la stessa linea l'abbiamo sempre utilizzata, anche, voglio usare casi più recenti, per esempio nel caso delle banche popolari, non abbiamo mai detto che fosse la responsabilità di chi stava allo sportello, ma le responsabilità manageriali e quindi a partire da presidenti, amministratori delegati, di chi gestiva quelle banche. La stessa linea, quindi soggetto privato, la stessa linea ovviamente la usiamo anche per noi, e quindi il tema della credibilità, se c'è come tema, c'era anche prima dell'inchiesta della magistratura, se uno ritiene questo gruppo poco credibile sul fronte delle notizie che dà. Se non c'era prima, non c'è neanche adesso. Giusto per avere un minimo di coerenza, poi al di là no, non ho mai parlato dei dipendenti delle Good Bank o Bad Bank come responsabili. Non c'è una puntata in cui si vi riferite a Etruria, Ferrara, Chieti, Cari Genova, con dei casi diversi, Marche, Vicenza, Veneto Banca, insomma tutti i casi che abbiamo, e Monte dei Paschi. Non abbiamo mai una volta citato la responsabilità dei dipendenti, neanche i dipendenti, diciamo, che avevano pure una responsabilità. Sono i vertici che hanno la delega alla gestione manageriale. Allora, andiamo avanti sul resto. Oltre alla classifica, questo con anche forte richiesta, tornerà il nostro uccellaccio Giulio Sapelli, anche perché ha scritto un libro che va nella direzione del tema che affronteremo nelle prossime settimane, dei nostri cosiddetti T-Talks, che stanno prendendo forma sotto la voce di Paura o Futuro. Vediamo se sarà il titolo definitivo. Sapelli ha scritto un libro che si chiama Un Nuovo Mondo, la rivoluzione di Trump e i suoi effetti globali, e va quasi un instant book, e va a analizzare appunto non tanto il trumpismo, ma da cosa origina il trumpismo e anche che cosa possa produrre. A chi mi chiede quando partiranno questi appuntamenti, ci stiamo lavorando. Diciamo che in questi giorni ogni tanto uno ha anche qualche distrazione non prevista, quindi ci stiamo lavorando. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Daremo anche aggiornamenti sul dibattito europeo, ma anche su alcuni dati americani oggi usciti. La buona notizia per quello che riguarda il debito italiano, che oggi il Tesoro ha collocato tutti i 6 miliardi e mezzo di euro di bot annuali, con scadenza quindi a marzo 2018. Il rendimento ha segnato un lieve rialzo, ma resta negativo. Il rialzo è veramente lieve, da meno 0,24% a meno 0,22%. Ottima la domanda. Da un ascoltatore, per insultarmi, riesce a dire: Barisoni, non potevi, tu non sapevi, e visto che si parla di te è altamente probabile che non sapessi davvero, perché sei un ignorante. Va bene, la prenda così, siccome sono ignorante ignoravo anche questo, va bene. Allora, dicevo, la domanda per l'asta di bot a 10 miliardi, quindi ottima la domanda, rapporto di copertura quasi a 1,6 rispetto all'offerta. Andiamo rapidamente con le notizie in breve. Allora, intanto ringrazio tutti gli ascoltatori che stanno manifestando via WhatsApp e SMS e solidarietà ai colleghi. La giro volentieri ai colleghi della radio, del quotidiano, dell'agenzia di stampa e ai dipendenti del Sole 24 Ore, tutti, nel senso che qua non è solo la componente giornalistica. Alcuni si riferiscono alla credibilità giornalistica e la risposta ve l'ho già data, però è chiaro che la solidarietà viene estesa a tutti i dipendenti del gruppo Sole 24 Ore. Andiamo avanti, dicevamo dei migliori in borsa, più 6,20% Banco BPM, Bipper più 2,90%, Unicredit più 2,90%, Ubibanca più 2,30%, come Intesa San Paolo. Nei migliori e peggiori in assoluto, a chi me lo chiede, non c'è il Sole 24 Ore, poi darò anche il titolo vista la giornata di oggi. No, c'è la Juventus più 8,44%, il Credito Valtellinese più 5,40%. Allora, veniamo ai dati come sempre di carattere internazionale. Creati negli Stati Uniti 235.000 posti di lavoro, la disoccupazione scende al 4,7%, continua una serie di dati più positiva delle attese. Il dato di febbraio è infatti migliore di tutte le attese degli analisti e da più parti si indica come a questo punto, dopo questa notizia, ancor più probabile un rialzo dei tassi di interesse americani, perché se le condizioni del lavoro, il dato economico, l'indicatore economico sul lavoro continua a migliorare, la Federal Reserve avrà ancora meno remore, se possibile, nel continuare questo graduale rialzo dei tassi di interesse, tant'è che ormai la scommessa sul fatto che la Fed rialzerà i tassi di interesse nel prossimo incontro, che è la settimana prossima, è ormai al 93% contro l'88% della settimana scorsa. Ancora per quello che riguarda l'Unione Europea, con tutta la contrarietà dei paesi dell'est, la Polonia in primis, l'Europa a due velocità, oggi Juncker, il Presidente della Commissione Europea Juncker, dice che l'Unione Europea a più velocità non è una nuova cortina di ferro, non è una linea di divisione tra est e ovest, è, diciamo, prendere atto di due diverse velocità di integrazione. Angela Merkel dice: sono ottimista perché a Roma si arrivi a una buona dichiarazione, perché sappiamo che i paesi che si vedrebbero inseriti nel gruppo, diciamo, due, non hanno intenzione in questo momento di arrivare a una dichiarazione congiunta. La lettera della Gran Bretagna che farà scattare l'articolo 50, quindi la Brexit, sappiamo già che arriverà entro fine marzo, quindi non siamo più sorpresi, e non oscurerà il vertice di Roma. Il premier Gentiloni oggi dice quello che per la Brexit non sarà un negoziato facile, e bisogna cercare di tenere fuori distinto il merito del negoziato sui diversi dossier economici e sociali da alcuni punti fermi, la collaborazione con il Regno Unito sul terreno geopolitico, delle alleanze internazionali, della NATO, e poi vorremmo, dice sempre Gentiloni, tenere fuori le dispute sui residenti che hanno dei diritti che sarebbe un errore mettere in discussione, quindi i residenti anche italiani in Gran Bretagna. E nel caso appunto dell'Europa a due velocità, non è, dice Gentiloni, un'Europa alla carte, ma una realtà che è già in atto. Io devo dire una cosa, io capisco la posizione dei paesi dell'est, però faccio anche notare che quando c'è stato da discutere come un'unica Europa dell'accoglienza dei migranti, delle quote da ricollocare, cioè, tutte le resistenze sono arrivate da Polonia, Ungheria. Allora decidiamo che ci sono dei paesi che non sono in grado di essere integrati come gli altri in Europa. Io non ho nessun tipo di... anche perché si tratta semplicemente di integrazione, ripeto, non di carattere economico, ma in primis sulla libera circolazione delle persone e su un insieme di altri elementi, no? Da Schengen in giù. Per cui non capisco tutta questa irritazione di paesi che, quando c'è stato a difendere i loro confini, hanno tirato su filo spinato e barriere di ogni tipo. E comunque sentiamo il premier Gentiloni proprio sull'Europa a due velocità. Il messaggio da parte nostra, in questo caso anche come paese che ospita questo evento, è un messaggio molto semplice. Non stiamo parlando di un'Europa alla carte, cioè che ognuno si sceglie la cosa che gli sta meglio e la indossa a seconda delle occasioni. Stiamo parlando di una realtà che è già in atto, non solo i trattati già la prevedono, ma la realtà già la mette in evidenza. I paesi dell'euro sono 19 su 27, i paesi di Schengen sono 20 su 27, i paesi che adesso aderiscono a questo progetto della Procura europea sono una quindicina, quelli dei brevetti, cioè siamo strapieni di questioni, in qualche caso abbastanza rilevanti, tipo la moneta, che hanno livelli di integrazione o di cooperazione diversi. E quindi il messaggio è che è una direzione di marcia necessaria, perché consente, laddove ci sia un'intesa tra singoli paesi, di fare dei passi in avanti, e non obbliga a evitare i passi in avanti perché anche un solo paese è contrario. E poi le indicazioni sui temi che verranno discussi al vertice di Roma, che ricorderà appunto i famosi accordi di Roma, dove nacque il primo embrione di Unione Europea. Dicevo, in base a questi accordi dichiarato oggi dal premier Gentiloni, quattro le priorità per la nuova Europa. Io esco da questa riunione con un relativo ottimismo, perché penso che, pur essendo consapevole, come tutti voi, delle difficoltà che attraversa l'Unione Europea e che la giornata di ieri ha messo plasticamente in evidenza, mi sembra che ci sia una consapevolezza comune del fatto che l'incontro di Roma possa essere una opportunità, un'occasione di rilancio. Ci sarà la indicazione di quattro grandi priorità con una prospettiva di 10 anni. I grandi obiettivi sono quelli di una Europa che riesca a difendere i propri cittadini nella sicurezza, nel contrasto al terrorismo, nella gestione, nella regolarizzazione dei flussi migratori, secondo di un'Europa della crescita, dello sviluppo sostenibile, del lavoro, terzo di un'Europa sociale, quarto di un'Europa che abbia un ruolo, direi, sempre più richiesto e urgente sul piano geopolitico, investendo e rafforzando le proprie capacità di difesa comune e anche investendo sulla sua straordinaria capacità di essere un soggetto di scambi, di mercati, la più grande superpotenza commerciale al mondo. E poi ancora una dichiarazione per quello che riguarda il Premier Gentiloni, sempre da Bruxelles, favorevole alle convergenze politiche e sociali, ma molti altri paesi sono riluttanti, anche tra i paesi più avanzati. La questione di cui molto si è discusso è quella dell'Europa sociale, traducendo, cioè, da sempre una tensione tra, in due parole si capisce molto bene, Europa sociale o Unione Europea sociale, e molti paesi sono riluttanti a una condivisione di politiche sociali, e talvolta lo sono anche paesi che al loro interno sono, dal punto di vista dei sistemi di protezione sociale, di welfare, molto avanzati, ma ritengono che questa materia debba restare di prevalente competenza nazionale. Mentre c'è una spinta, e come sempre in questi casi l'Italia è favorevole a questa spinta, a politiche di convergenza dell'Unione che cerchino di promuovere politiche sociali comuni. Si troverà anche su questo un punto di intesa. Allora, ancora due notizie, poi il meteo, la pubblicità e poi la classifica con, come ho promesso, e ci mancherebbe, anche il racconto di quello che è successo oggi, che ci riguarda direttamente come gruppo Sole 24 Ore, non come giornalisti del gruppo Sole 24 Ore. Ma dicevo, oggi faccio notare che sul Corriere della Sera c'è un'indiscrezione per cui la Cassa Depositi e Prestiti starebbe studiando la cessione, una cessione del 15%. O meglio, il Ministero dell'Economia sta studiando un nuovo assetto della CDP che porterebbe una cessione del 15% simile a quella che già oggi posseduta dalle fondazioni bancarie. Questo porterebbe nelle casse dello Stato circa 5 miliardi di euro. Faccio notare che la CDP, insomma, ha una dote da 250 miliardi e un patrimonio che supera i 33 miliardi. Per quello che riguarda invece le notizie, la disoccupazione in Italia nel 2016 è calata all'11,7%, gli occupati sono al massimo dal 2009, l'aumento, come già confermato in questi mesi dai dati mensili, riguarda soprattutto chi ha più di 50 anni, anche però qualcosa si è mosso tra i giovani tra i 15 e i 34 anni. Allora, i disoccupati sono diminuiti di 21.000 unità, meno 0,7%, è chiaro che il livello di 11,7 dall'11,9 è ancora un livello molto alto. L'aumento coinvolge appunto anche i giovani tra i 15 e i 34. La cosa interessante è che il numero di occupati, cioè chi lavora tra tutti quelli che potrebbero lavorare, non chi non lavora tra chi lo sta cercando, ma dicevo, il dato degli occupati è il migliore dal 2009. Sono 252.000 in più rispetto appunto al 2015. Da questo punto di vista il dato è in miglioramento sia sul fronte tendenziale, cioè anno su anno, che sul fronte congiunturale. Ancora per quello che riguarda invece la questione taxi, oggi faccio notare che la segnalazione dell'antitrust al Parlamento, nella segnalazione dell'antitrust al Parlamento, il garante ha chiesto un alleggerimento della regolazione esistente, eliminando le disposizioni che limitano su base territoriale l'attività degli NCC. Questo lo chiede l'autorità antitrust, quindi di ridurre la regolazione esistente eliminando le disposizioni che limitano su base territoriale l'attività degli NCC, cioè dei conducenti delle vetture con conducente, e riforme che garantirebbero una piena equiparazione tra tassisti e NCC e faciliterebbero lo sviluppo di forme di servizio più innovative e benefiche per i consumatori, tipo Uber Black e My Taxi. Questo lo chiede l'antitrust. Poi vediamo cosa farà il governo. Allora, per quello che riguarda i messaggi che stanno arrivando, darò una risposta collettiva dopo il meteo e la pubblicità, e poi partiamo con la classifica. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Allora, prima della classifica, ci mancherebbe, non entra nella classifica, lo ripeto, che si fosse appena messo in collegamento, perché trattasi di gruppo privato e mai un gruppo privato è entrato in classifica, però le notizie le diamo tutte. Oggi, perquisizione della Guardia di Finanza al Sole 24 Ore, 10 persone indagate in merito alla vicenda delle copie digitali multiple. Adesso arrivo anche all'accusa. Le persone indagate nell'inchiesta sui dati diffusi su quante copie digitali che vengono calcolate assieme a quelle cartacee per sapere quanto un quotidiano vende. Dicevo, nell'inchiesta sono indagati per false comunicazioni sociali, tra gli altri anche l'ex presidente del gruppo Benito Benedini, l'ex amministratore delegato Donatella Treu e il direttore del quotidiano e di Radio 24 Roberto Napoletano. Altri indagati riguardano invece l'appropriazione indebita per circa 3 milioni di euro, e tra gli indagati si segnala, oltre che il deputato Quintarelli, Giuseppe Stefano Quintarelli, deputato eletto in scelta civica e ora nel gruppo misto, indagato per appropriazione indebita in qualità di ex direttore dell'area digitale del quotidiano Sole 24 Ore, anche l'ex direttore dell'area vendita Alberto Biella, il commercialista Stefano Poretti e Filippo Beltramini, direttore di una società inglese controllata da D-Source, la società che secondo l'accusa e l'inchiesta avrebbe svolto il ruolo di acquistare copie digitali multiple fittizie, nel senso che poi non venivano effettivamente lette e quindi andavano a creare un valore falsato nelle vendite. I PM scrivono: si parla di gravi anomalie nell'andamento economico della società, di vendite di copie digitali tanto enfatizzate ma poi accertate come false, e anche di una parte significativa di copie cartacee finite dirette al macero. Questo è un decreto di perquisizione eseguito oggi nell'ambito dell'inchiesta dei PM di Milano, Fabio De Pasquale, che è il coordinatore del pool dei reati economici e finanziari della Procura, e Gaetano Ruta, sui conti del gruppo Sole 24 Ore. Da questo punto di vista, appunto, c'è il presunto dato falso comunicato: il gruppo Sole 24 Ore è quotato in borsa nel marzo 2016 relativo al bilancio 2015 di oltre 100.000 copie digitali multiple dichiarate come vendute, ma che sarebbero risultate, a detta degli inquirenti, copie fantasma. Gli accertamenti hanno riguardato anche la società inglese di Source Limited e altre due che sarebbero ad essa collegate e che era stata incaricata dal gruppo di gestire gli abbonamenti delle copie digitali e che avrebbe gonfiato i dati con un impatto finale dunque sia sul bilancio del gruppo che sul mercato degli inserzionisti pubblicitari. L'accusa, per chi non chiede ancora, è di aver fornito un dato falso sulle copie digitali multiple, quelle che vendute a pacchetto, che avrebbe falsato sia il dato sull'andamento del gruppo, che essendo quotato ha una legislazione della società quotata, sia il mercato degli inserzionisti pubblicitari. Quindi questa è l'accusa. Allora, la Confindustria, principale azionista del gruppo Sole 24 Ore, ha confermato piena fiducia nella magistratura, nella sua azione, e ribadisce la necessità che venga fatta la più ampia chiarezza sui fatti passati relativi al Sole 24 Ore. Poi il consiglio di amministrazione del gruppo Sole 24 Ore, il nuovo consiglio, che nulla c'entra con quello precedente, valuterà nella sua autonomia le azioni da prendere, mentre Confindustria, nella sua qualità di azionista di maggioranza del gruppo, valuterà tutte le azioni necessarie a tutela propria e degli azionisti. Il gruppo Sole 24 Ore, i nuovi vertici del gruppo Sole 24 Ore ribadiscono piena collaborazione agli inquirenti e ribadiscono la propria volontà a fornire agli organi inquirenti la massima collaborazione per l'accertamento dei fatti, confermando che agiranno con determinazione a tutela degli interessi della società. Faccio notare che nella vicenda che riguarda la appropriazione indebita il gruppo Sole 24 Ore risulta parte offesa, nel senso che l'accusa è rivolta alle persone che prima citavo, non solo a quelle. E poi la dichiarazione del direttore del Sole 24 Ore e di Radio 24, Roberto Napoletano, che esprime piena, totale, assoluta fiducia nella magistratura inquirente. Sono certo di poter dimostrare in tutte le sedi la piena linearità dei miei comportamenti, che è quella di una vita. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. Allora, questa è la vicenda. Poi i nostri GR vi hanno aggiornato sulla scelta di carattere sindacale di Radio 24, la sospensione delle firme e pacchetto delega al CDR di un pacchetto di 5 giorni di sciopero. Il quotidiano Sole 24 Ore invece poco fa ha annunciato sciopero ad oltranza fino a che non arriveranno, se ho ben capito il comunicato, le dimissioni del direttore Roberto Napoletano. Sciopero ad oltranza in italiano non si presta a molte interpretazioni, vuol dire sciopero finché non arriverà questa decisione. Felicità, momenti e futuro incerto. Allora, andiamo sul traffico adesso, perché per completezza di informazione, almeno dico a chi sta scrivendo, potete riconoscere che mi sembra di aver dato la massima informazione possibile sulla cosa, su tutti i fronti, ovviamente, essendo uno stato di diritto. E per quello che riguarda il Sole 24 Ore come parte offesa nell'ambito dell'appropriazione indebita, per quello che riguarda la solidarietà che ho chiesto io, è la solidarietà che sempre abbiamo manifestato anche ai dipendenti del Monte dei Paschi, tutte le banche, ai giornalisti e ai dipendenti del gruppo Sole 24 Ore. Dopodiché, ripeto, la linea è unica, ma non ci voglio tornare tutta la puntata. Se eravamo credibili prima come giornalisti, lo siamo anche adesso. Se non eravamo credibili prima, non lo siamo neanche adesso. Ma nulla c'entra l'inchiesta su una gestione manageriale che coinvolge, secondo l'ipotesi della magistratura, manager del gruppo su una vicenda delle copie digitali. Il dato, secondo l'accusa, sarebbe falsato. Mi spiegate che cavolo c'entra un giornalista della radio o del Sole quando scrive un pezzo o registra un pezzo o fa un programma con le copie digitali, con l'accordo con le copie digitali, con Di Sosa? Adesso obiettivamente diamo a ognuno le sue responsabilità. Se un gruppo va bene, la responsabilità di solito se la prendono i manager, anche con i bonus. Se vengono fatte queste cose che ipotizza la magistratura, allora si dirà responsabilità ai manager e non solo quando le cose vanno bene. Traffico. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Focus Economia. Adesso agitatevi cari, ma quando vi ordinavano di ignorare la Consip, di occuparvi a tempo pieno delle polizze, delle orecchie, della Raggi, voi avete obbedito. Mi fate pena e schifo. Anna Maria da Roma, guardi, lei è nella linea coerente, cioè se le facevamo pena e schifo prima, le facciamo pena e schifo anche adesso, va bene, non è cambiato nulla. Che poi questa radio e gruppo, ma comunque io parlo della radio in questo caso, abbia ignorato la Consip con cui abbiamo aperto non so quanti GR negli ultimi giorni, se si riferisce a tutta la vicenda di Marroni che tira in ballo anche il ministro Lotti, il ruolo del padre del premier Renzi, non so, penso aver fatto a memoria, visto le riunioni che faccio, una quindicina di aperture di GR almeno in questi ultimi 2-3 giorni sulla vicenda, 4 giorni. E poi le polizze della Raggi hanno fatto parte anche quelle dell'apertura di GR. Ma perché se uno parla della Consip va bene, se parla della Raggi va male? Questo non lo capisco. Comunque Allora, andiamo sulla classifica. Non so se ce la facciamo a fare la classifica oggi. Secondo me non ce la facciamo. Vi voglio dire chi abbiamo messo in classifica, non in primo posto, perché E poi se ce la facciamo oggi, perché vorrei veramente parlare anche con Sapelli, se no la rimando. Allora, avevamo messo in classifica i Netturbini di Palermo, e c'era anche un audio molto interessante. Poi, al quarto posto, i bluff dei vitalizi all'Assemblea regionale siciliana, tagliati solo 20 assegni d'oro. I rimborsi ai nostri parlamentari a Strasburgo, e anche lì c'è una dichiarazione molto interessante della loro deputata di Forza Italia, Lara Comi. E poi, al secondo posto, le tangenti, secondo l'accusa anche qua, che avrebbe percepito il primario oncologico nel 2015, il primario oncologico al Pascale dell'ospedale Pascale Francesco Izzo, in cambio di una più massiccia prescrizione di Nexavar, farmaco antitumorale. E al primo posto, la lascio, non voglio dirla a questo punto, ma mi fanno segno in regia che non ho tempo per fare la classifica. Vabbè, ecco, la rifacciamo venerdì prossimo. Faccio lunedì e venerdì, adesso lo decideremo. Giornata un po' particolare oggi. Comunque, io andrei alla borsa facciamo la startup. Facciamo anche la startup. Allora, che oggi serve a non tanto a confortare voi dopo la classifica, ma a confortare me dopo ste notizie. Possiamo metterla così? Allora, lo uso io come Prozac oggi. La startup che portiamo in trasmissione, Michel Cohen, amministratore delegato e fondatore di Dental Pro. Buonasera. Buonasera, buonasera. Non sia più depresso di me, però. Cohen. No, non sono depresso. No, perché qua sono contentissimo. Se facciamo la gara, ecco. Allora, no, almeno così. Su questo dateci un diritto oggi di prelazione, almeno oggi. Senta, che cos'è Dental Pro? E quando l'avete fondato, perché noi portiamo sempre dopo la classifica, che oggi non ho tempo neanche di iniziare a fare, dopo la classifica per tirarci su di morale, e portiamo sempre società che sono nate in questi anni di crisi, e quando l'avete fondata, con chi, che cosa fate e chi vi ha dato i soldi? Sì, buongiorno a tutti. Allora, Dental Pro è nata nel 2010 ed è un gruppo di cliniche dentistiche ormai presente in tutta Italia, prevalentemente presente nei centri commerciali, e è nata in piena crisi, direi, perché è nata nel 2010 con capitali di alcuni privati, con l'obiettivo, diciamo così, di soddisfare alcune esigenze del mercato odontoiatrico in prevalenza, ma comunque del mercato della salute in generale. Ecco, quanti siete adesso, come avete fatto a espandervi e chi vi ha dato i soldi per implementare l'attività? Sì, certo. Allora, noi siamo nati nel 2010, abbiamo aperto una primissima clinica, quindi in quei giorni eravamo in effetti una startup e forse lo siamo rimasti per 2-3 anni. Oggi in realtà abbiamo 110 centri dentistici in tutta Italia, quindi sono centri di circa 200-300 metri quadri ciascuno, con 4-5 poltrone del dentista. Sì. Fatturiamo un po' più di 100 milioni di euro, quindi forse il periodo della startup è un po' passato, e siamo il gruppo più grande in Italia, insomma. Chi ci ha dato i soldi? Beh, allora, inizialmente abbiamo raccolto dei capitali, ma io personalmente, insieme ad una serie di altri soci. Intanto io sono socio fondatore insieme a due odontoiatri, a due dentisti, invece io non sono un dentista, non faccio l'imprenditore. E abbiamo raccolto capitali da piccoli imprenditori, investitori privati fondamentalmente, quindi non da banche o non da istituzioni, ecco. Poi abbiamo fatto due aumenti di capitale principalmente nel giro dei primi di 3 anni, e poi siamo cresciuti sostanzialmente con l'autofinanziamento e una piccola parte anche con l'aiuto delle banche, soprattutto per l'acquisto delle attrezzature. Ecco, le banche sono arrivate dopo o all'inizio? Beh, guardi, le banche arrivano purtroppo sempre dopo, perché insomma in Italia si sa che è molto difficile prendere soldi dalle banche quando si è una startup, quindi bisogna sempre dimostrare il passato e non tanto il futuro. Questo è un po' un problema endemico del nostro paese, direi, diversamente dai paesi anglosassoni, Stati Uniti, Inghilterra o Nord Europa anche. Quindi la risposta è netta, le banche sono arrivate nettamente dopo, anzi hanno voluto vedere dei bilanci inutili, eccetera. Però devo dire che poi hanno capito il nostro modello, ci hanno seguito, ci hanno dato del leasing. Allora, guardi, siccome io anche oggi, come dicevo, ho bisogno di notizie positive, una volta tanto... sto zitto. Allora, dopo il GR24, prima dell'arrivo di Sapelli, che come notizie positive non è proprio che me ne porti sempre, ma voglio parlare del suo bellissimo quasi instant book un nuovo mondo, la rivoluzione di Trump e i suoi effetti globali, e prima della borsa ci racconta anche i progetti di sviluppo e l'età di chi avete assunto e insomma, in base a che cosa li avete assunti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, GR24. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. È un mondo difficile. E vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. Sono 18 e 8 minuti. Grazie a tutti gli ascoltatori che manifestano solidarietà ai giornalisti e dipendenti del Sole 24 Ore. Devo dare appunto questo messaggio. Chi mi dice non siete più puri, guardi, io non so se ero puro o non puro, non ho il termometro della purezza, ma so che la mia purezza e quella dei colleghi con cui lavoro, colleghi in senso lato, quindi anche tecnici di regia, assistenti del programma e tutti, non dipende dalle vicende su cui sta indagando la magistratura e su cui sono arrivati gli avvisi di garanzia agli ex vertici del gruppo Sole 24 Ore e all'attuale direttore Roberto Napoletano. La purezza un po' come la virginità, non è una questione di centimetri, o uno ce l'ha o non ce l'ha, ok? Allora, volevo chiudere con il fondatore di Dental Pro, Michel Cohen. L'età delle persone assunte, quante ne volete assumere, come le selezionate? Allora, noi abbiamo un'età media in tutto il gruppo di 33 anni, quindi fondamentalmente cerchiamo persone giovani, in ruoli, diciamo, operativi nelle cliniche in gran parte, e l'80% delle persone che abbiamo sono donne. Sono anche ruoli, diciamo, più tipicamente abituali delle donne, quindi reception, assistente alla poltrona, storicamente sempre state più donne, e quindi questo è confermato anche da noi. Le selezioniamo con un processo, diciamo, abbastanza professionale di scelta. Possono scrivere guardando sul nostro sito dentalpro.it, ci sono tutte le informazioni, abbiamo tutte le ricerche e le candidature. Bene, e quanti sono, mi scusi? Cerchiamo. Lei parla di 70 centri nuovi? Sì, apriamo 70 nuovi centri, cerchiamo circa un migliaio di nuovi dipendenti e 600 nuovi medici. La ricerca era, quindi sono 1000 più 600, ho capito bene? Sì, vabbè, esatto, perché sì, adesso non voglio trasformare il programma in un'offerta di lavoro, ma insomma, visto il periodo, è giusto, non è anche male. Non è male, non mi sembra assolutamente male. Avete fatto entrare un fondo anche di private equity, mi chiedono? Sì, se non ricordo male. Abbiamo fatto 2 anni fa, abbiamo fatto entrare un fondo che ha, diciamo, consolidato la nostra struttura di capitale, ci ha aiutato a crescere ulteriormente. Insieme a questo abbiamo unito le forze con altre 2 aziende che facevano un'attività simile alla nostra, e quindi siamo rafforzati, siamo diventati appunto 110 centri. Quindi in parte li abbiamo aperti noi direttamente, in parte abbiamo, diciamo, acquisito queste altre 2 realtà, e oggi Dental Pro è il più grande gruppo in Italia e anche il decimo gruppo della sanità in Italia, non solo nell'odontoiatria. Grazie e in bocca al lupo a lei, ai dipendenti attuali, e mi auguro ai 1600 più o meno che dovrete assumere. Qualcuno mi dice mamma mia che voce... potrebbe andare anche peggio, no, oggi? Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Grazie alla regia per un po' di ironia che in questa giornata manca. Free. I wanna be free. Allora, dovete accontentarvi di me per quello che riguarda la borsa, perché anche i colleghi di Radio Corri su 24 ore sono in assemblea sindacale e in attesa appunto di capire. Chiaramente non posso intervenire oggi al programma. Più 0,45% Milano, più 0,24% Parigi, meno 0,13% Francoforte, Londra più 0,40%, euro su dollaro a quota 1,06. Dicevamo, dopo le parole di ieri di Mario Draghi e le decisioni della Banca Centrale Europea, oggi tirano una bella boccata le banche. Banco BPM più 6,60, Unicredit più 3,40, Biperbanca più 3,20, UbiBanca più 2,5, Mediobanca più 2,40, Intesa più 1,80%. Leonardo meno 1,60 come A2A, Fiat Chrysler meno 1,30 come Steam Microelectronics, Eterna, Case New Holland, CNH Industrial meno 1,20, SNAM meno 0,70. Allora mi chiedete di Leonardo Finmeccanica. No, non c'è un motivo particolare oggi. Certo che devono arrivare nomine, e quella più traballante per le vicende giudiziarie, non è una novità, è quella di Moretti. C'è un po' di tensione sul futuro dei vertici di Finmeccanica. Ancora la chiamo ancora Finmeccanica, in realtà si chiama da un po' Leonardo. Per quello che riguarda i titoli minori, invece, segnalo che Parmalat è arrivata anche sopra il livello dell'OPA e adesso devo dare la classifica dei migliori e peggiori, che riguarda anche noi, non è l'unica cosa che ci riguarda, anzi forse è la minore che ci riguarda oggi. Allora, peggiori titoli: meno 10% Media Contact, meno 8 Casta Diva Group, meno 7,50 Cover 50, Gala meno 5,40, Telesia meno 4,90, Sole 24 Ore meno 4,60%. Qualcuno mi chiede se l'accusa della magistratura sulle le copie, il numero di copie falsato per quello che riguarda le copie digitali, non abbia falsato anche il valore delle azioni. Ma ragazzi, è per questo il motivo per cui indaga anche la Consob, cioè, nel senso, è tutto lì, punto. Le due accuse, una falsa comunicazione, l'altra invece appropriazione indebita, sono relative proprio alla distorsione che si sarebbe, secondo i magistrati che stanno indagando, realizzata in un numero di copie più alte di quelle effettivamente vendute anche a livello digitale, che avrebbe falsato, cito la dichiarazione dei PM, il presunto dato falso comunicato nel marzo 2016 di oltre 100.000 copie digitali multiple, con da questo punto di vista un dato che avrebbe ingannato e quindi avrebbe avuto un impatto finale sia sul bilancio del gruppo che sul mercato degli inserzionisti pubblicitari. Ancora dicevo, sui titoli i migliori, appunto West Italia più 21, Jequity più 14, Juventus più 8,60, primi sui motori più 7,40, Banco BPM più 6,60, segnalo anche molto forte oggi il credito valtellinese più 6,36%. Allora, andiamo sul traffico e poi l'uccellaccio, che oggi vuol dire come il caccio sui maccheroni, vai. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Focus Economia. Allora, qualcuno mi fa notare che non si saluta un dentista con in bocca al lupo. Sì, va bene. Professor Giulio Sapelli, uccellaccio che aleggia sopra i nostri cieli, nonostante il cielo azzurro, il nostro un po' più plumbeo. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti coloro che ci ascoltano. Mi permetta di esprimere la mia solidarietà a lei e a tutti i dipendenti del Sole, che uscite con i minori danni possibili dalla schiavitù babilonese. quindi auguri, auguri. Grazie, grazie professore, grazie per gli auguri ai dipendenti del Sole 24 Ore, dai giornalisti, a tutti i dipendenti del Sole 24 Ore. Grazie, certo, di cuore. Giornalisti, dipendenti, tutto grazie certo. Di cuore e soprattutto vedo, ringrazio ancora gli ascoltatori che stanno manifestando il loro apprezzamento per la radio e per la qualità di questo prodotto. Poi altri non lo manifestano giustamente e non l'hanno mai manifestato, non lo manifestano neanche adesso. Ripeto, bastano manifestarlo in base a indagini della magistratura su gestioni manageriali. Senta, professor Sapelli, lei è uscito con un libro che è quasi un instant book, perché insomma la rivoluzione di Trump e i suoi effetti globali. Ho cominciato a scriverlo 2 anni fa, però. Vabbè, già sapeva che avrebbe vinto Trump, no? No, Trump non è che un epifenomeno previsto, poteva vincere lui o un altro. Allora, siccome noi ci occupiamo era scritto nella storia di attualità, abbiamo visto ieri e anche oggi varie dichiarazioni, i paesi diciamo dell'est Europa, li chiamo così, gli ultimi arrivati, Polonia in primis, capeggiare una specie di fronda che dice no, se volete fare l'Europa a due velocità come integrazione e non come economia, noi non ci stiamo, e a rischio è anche il documento comune del vertice di Roma che deve ricordare i famosi trattati di Roma. Io facevo notare in apertura che però sono gli stessi paesi che sono stati i primi a staccarsi tra virgolette da una politica europea comune quando c'è stato da ricollocare gli immigranti, penso all'Ungheria e anche alla Polonia. Partiamo da qui perché lei prevede nel suo libro, non posso raccontarlo tutto, una Germania destinata a essere confinata all'angolo dopo la rottura con il Regno Unito, proprio in un periodo in cui gli Stati Uniti di Trump si riavvicinano alla Russia e tramite essa al Medio Oriente, la Turchia, agli Stati Arabi del Golfo, con un mondo fatto di un'alleanza a geometrie variabili però tra Stati Uniti e Russia e il player cinese in affermazione. Come legge quanto sta capitando diciamo tra ex paesi comunisti, chiamiamoli così, e il resto, è il cuore, il nocciolo duro storico dell'Europa? Per quello che ha tenuto duro questo nocciolo, ha tenuto insieme il nocciolo, come sappiamo tutti, è stata la guerra civile europea. C'è il conflitto con il comunismo e la presenza dell'Unione Sovietica. Naturalmente quando crolla l'Unione Sovietica non si è fatto quello che si doveva fare, cioè fare una sorta di nuovo congresso di Vienna, mettersi tutti lì attorno a un tavolo e ridisegnare i confini dell'Europa senza mortificare l'ex Unione Sovietica, cioè la Russia. Naturalmente quelli che non hanno voluto questo sono stati da un lato gli americani, perché i Clinton hanno fatto una politica devastante, gli interessava soprattutto allearsi finanziariamente con i cinesi, creare quella simmetria commerciale che ha distrutto mezza industria manifatturiera mondiale, che è stata la Cina che entra nel WTO, e poi i russi hanno ripreso di fatto una nuova guerra fredda. Gli stati belli, i baltici, la povera Polonia sempre dilaniata e colpita da questo tragico destino, perché è stata il blocco tedesco e il blocco russo, e tutti questi paesi erano quelli più affascinati dall'idea di un'Europa, un'idea dell'Europa che per loro voleva dire libertà, democrazia e anche, se mi permette, affermazione della nazione che avevano visto negato dai russi. Il dominio della Russia è stato sempre un dominio grande russo. Certo. Le minoranze russe sono state portate lì, appunto, cioè è un po' la stessa cosa come il fascismo fece in Alto Adige, no? Cioè, i russi hanno fatto questa politica. Naturalmente invece da un po' si rendono conto, da un po' di anni, che l'Unione Sovietica non c'è più, ma però c'è l'Unione Europea che li vuole imporre delle cose che loro non vogliono. Lei vede anche questa offesa che hanno fatto ai polacchi, hanno eletto Tusk presidente quando i polacchi non lo volevano. Ma allora voi volete veramente fomentare il dissidio, no? C'è una nazione polacca che è stata mortificata dai sovietici, riacquista una dignità nazionale grande a grandi eroi, adesso perdono le elezioni il partito di centrista, vince una destra che chiamatela come volete, però governa la Polonia, avrà pure il diritto di indicare chi è il suo candidato. Sì, certo. No, glielo bocciano e mettono quello loro. Loro si rende conto che l'Unione Europea si sta disgregando nel nazionalismo, che la tecnocrazia europea ha fatto tutto per far risolvere. Se poi dietro ci mette l'elmetto tedesco, che ha sempre fatto paura a quei popoli, come la faccia martello sovietica, lei capisce tutto in quale cul-de-sac si è infilata l'Europa, dominata dalla Merkel e dalla debolezza francese, perché tutto questo è possibile che la Francia come dimostra questa vicenda terribile di Fillon, uno che si candida Presidente della Repubblica sfidando la legge. Poi lasciamo perdere, io e lei la pensiamo nello stesso modo sui magistrati francesi come quelli italiani. Era meglio non tirarlo fuori adesso. No, io oggi, guardi, oggi in questa particolare giornata dei magistrati non penso niente, Sapelli, me lo conceda. Sì, almeno ragione, oggi. Almeno non oggi. Ecco. Però insomma, io non devo dire, ma lei si rende conto che questa Europa, come ecco, anche facendo riferimento al modello di costruzione, mm-hmm, questo modello tragico di Jean Monnet, no, che era quello del funzionalismo, sottrae sovranità senza che i popoli se ne accorgano. Ecco, questo, allora, adesso qui ci stiamo avvicinando, però che adesso arriva l'Olanda, poi la Francia, l'Olanda brevissimo, e poi la Germania più avanti. Io ho sempre detto che l'unico paese che non mi sembra paradossalmente problematico in questo momento è la Germania, perché lì ce la giocano Merkel e Schulz. Comunque, insomma, la linea europeista, Schulz molto più sociale, ben venga, aggiungo io, ma non voto in Germania, quindi posso dirlo. La Merkel molto meno, e vabbè, ma lei come si immagina un'Europa post-elettorale? Cioè andiamo da qua a ottobre-novembre, in Olanda il testa a testa un po' c'è, però dovrebbero farcela. Insomma, come si immagina che uscirà questa Europa dopo la tornata? Mi immagino che adesso, anche se la Pen non dovesse, Le Pen non dovesse vincere, anche se appunto in Olanda le cose non andassero, chiedo scusa, in modo così tragico come molti credono, la destra nazionalista e sottolineo antisemita, in pratica in molti paesi neonazista, uscirebbe molto rafforzata. Sarebbe molto, ecco, rafforzata. Senta, in tutto questo, perché noi restiamo in Europa, cioè, geograficamente. Come, che cosa, quali saranno le conseguenze per noi, qui allargo il ragionamento, visto che nel suo libro è uno degli elementi importanti, di questa alleanza, sia a geometrie variabili, quindi delle volte più forte, sì, delle volte più morbide, debole, sì, sì, tra Stati Uniti e Russia, con il player cinese, che non ho ben capito che ruolo dovrebbe avere, ma che sicuramente sarebbe il terzo sì, oggetto. L'Europa cosa diventa? Guardi, innanzitutto bisogna prima dire che cos'è che fa forte questa alleanza, che poi è un'alleanza piena di problemi. I russi hanno appena adesso lanciato un missile che viola tutti i trattati internazionali sui missili a lungo raggio, quindi non è un'alleanza pacifica, è un'alleanza piena di conflitti. Gli americani e i russi hanno solo interesse, far finire la guerra mesopotamica, cioè, e nordafricana. Siria e Nord Africa. Siria, Iraq è il cuore della faccenda. Iraq, Kuwait, ricordiamoci che comincia tutto di lì. E i siriani, che sono sempre stati il lago della bilancia in questa cosa, cioè di quel petrolio, c'è ancora bisogno, ma c'è bisogno poi di proteggere Israele, perché questa è poi la questione. Ecco, Israele non può sopportare ancora una fibrillazione dell'area così forte. Quindi tanto gli americani quanto i russi. La Russia vede una necessità inderogabile di arrivare agli mari caldi e stabilirsi una nuova base in Siria, ne stanno già costruendo un'altra. La questione cinese vede tanto i russi quanto gli americani, secondo me, quando parlo degli americani non parlo di Trump è un epifenomeno, quello che sta capitando in America capitava anche se Hillary Clinton è l'unica che poteva mandare tutto a catafascio, perché i Clinton rispondono solo al potere finanziario e hanno una formidabile macchina di condizionamento del popolo. Ma se avesse vinto Sanders avrebbe fatto le stesse cose. Sapelli, però, siccome ho un minuto e mezzo, mi dice che cosa succederà all'Europa in questo scenario che lei sta individuando? Una lenta disgregazione che è già cominciata. Finalmente già una bella notizia in questa giornata. Perché quando uno dice, perché quei quattro paesi, Spagna, Francia, Italia e Germania, si riuniscono e fanno le Cassandre? Nell'anniversario del trattato non dicono andiamo avanti, ma dicono facciamo un'Europa a due velocità. Quindi è un auto da fè. È come uno che sta affondando e attacca, come nei film di James Bond, che a me piacciono tanto, il meccanismo dell'autodistruzione. Perché questi quattro hanno fatto questo. Quindi lei, se ho ben capito, io poi invito tutti quanti, come sempre facciamo quando portiamo un libro in studio, a leggere, Guerini Associati, la casa editrice, Un nuovo mondo di Giulio Sapelli. Quindi lei dice, in questo si poi facciamo a metà con le royalties, sto scherzando, Ma certamente. Sto scherzando perché ci mancherebbe oggi. Allora, dicevo, lei dice, attenzione, ci sarà un asse di geometrie variabili Washington-Mosca con la Cina in mezzo e l'Europa che va, non dico a essere vaso di coccio, ma va a subire le conseguenze perché non è stata in grado in questi anni di costruirsi un'identità vera, non solo ragionieristica e contabile. Ho capito bene? Prima di chiudere. Ha capito bene, poi c'è una questione di fondo, che alcune potenze vedono il loro retroterra, i francesi sono quello che lo esprimono magnificamente, in Africa. Non gliene importa più nulla di stare in Europa e di contare, hanno già preso quello che potevano prendere dai paesi meno forti come l'Italia. Sì. E adesso cercano un retroterra in Africa, perché quello che deciderà le sorti future è la ricostruzione della Mesopotamia. Allora, grazie, la riavremo ospite per parlare anche di cronaca attualità, ma mi piaceva oggi respirare un po' di più. Grazie a Giulio Sapelli, docente di storia economica alla Statale di Milano. È un mondo difficile e vita intensa. Come sempre, un augurio di buon fine settimana a, innanzitutto a tutti i dipendenti del Sole 24 Ore, poi a un ringraziamento a Mauro Del Cono e Barbara Bianchi, come sempre, per l'assistenza in redazione e in studio, e l'augurio parte come sempre anche in questi casi per chi dovrà passare il fine settimana lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi e ci saremo. Radio 24, libera la voglia di fare.